1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Siamo qui, cari italiani, 7:18 minuti, cari amici miei debosciati. Il mal di gola oggi mi assiste e persiste. Non mi persiste, ma persiste e basta. Va bene, ma ce la facciamo. Siamo qui in diretta fino alle 9. Parleremo di sicurezza perché sembra il nuovo fronte sul quale anche il governo Renzi si vuole misurare dopo la affermazione elettorale della Lega alle ultime elezioni regionali. Ne parleremo con l'onorevole Emanuele Fiano del Partito Democratico, è responsabile di sicurezza del PD, e con Edoardo Rixi che invece è il vice segretario della Lega federale della Lega in Liguria. Avremo con noi anche l'avvocato Antonio Gugliotta che difende i Rom che sono stati presi a Boccea, no? La tragedia, l'uccisione della Filippina. Parleremo di questo alle 8:15. Intanto andiamo a leggere i giornali. È giovedì 4 giugno, i titoli, il Sole 24 Ore apre ancora sulla Grecia, Atene intesa più vicina, Berlino vuole l'accordo, questo è il titolo di prima pagina. Il Corriere della Sera invece, sempre sulla vicenda De Luca, oggi ha un'intervista a Filippo Patroni Griffi, ex ministro all'epoca del governo Monti, che ha scritto, è il coautore della legge Severino. Renzi a tempo su De Luca, questo è il titolo di prima pagina. Su questo tema invece si concentra il Manifesto con la foto di Raffaele Cantone, il presidente dell'autorità anticorruzione, che ieri ha detto anche qui la legge Severino potrebbe non essere applicata subito. Il titolo del Manifesto è La Cantonata. I posti di lavoro che aumentano ad aprile, il Messaggero, aumentano i posti di lavoro, è il titolo di prima pagina. Per la Stampa, il lavoro cresce, Renzi apre al dialogo. Repubblica, cresce l'occupazione anche per i giovani. E poi Grecia, accordo vicino. Sulla sicurezza invece il titolo di Libero è il titolo di prima pagina, Renzi vuol dare le case ai Rom. Il Giornale invece, Renzi Alfano, vendetta contro il Nord, la bomba immigrati. Il Fatto Quotidiano invece torna su una vicenda dell'inchiesta su Berlusconi. L'inchiesta su Berlusconi e le escort, il PM disse Alfano mi ha telefonato. Ecco gli audio tra l'ex procuratore di Bari Laudati e l'inviato di Panorama. Mi disse Alfano, mi raccomando. Questa è l'apertura del Fatto Quotidiano. Io però voglio andare a saltare sul secolo XIX per quel terribile fatto di cronaca nera, l'uccisione di Loredana Colucci da parte del suo ex marito che poi si è anche suicidato, da parte di questo cittadino straniero che è stato lasciato libero 2 mesi dopo l'arresto per stalking. Allora, il Secolo XIX va a intervistare con Marco Menduni il giudice che lasciò libero il killer. Il giudice si chiama Filippo Maffeo, 65 anni, giudice del Tribunale di Savona. Non ho sbagliato, la legge è così. Questo è il titolo. Come vuole che ci si senta quando ci sono stati 2 morti? Uno ci pensa tutta la notte, si chiede se ha sbagliato qualcosa, però non ho sbagliato, ho fatto il massimo che la legge mi permettesse. Inizia così l'intervista a Filippo Maffeo, giudice del Tribunale di Savona, 65 anni, il magistrato che il 28 aprile ha accettato il patteggiamento a 2 anni di Mohamed Aziz El Muntassiri, il marocchino che ad Albenga ha ucciso a coltellate la moglie Loredana Colucci davanti agli occhi della figlia di 13 anni per poi togliersi la vita. Dottor Maffeo, non poteva almeno decidere qualche limitazione in più? Chiede Marco Menduni. Non potevo, bisogna conoscere le cose prima di parlare. Il giudice applica la legge e la legge è chiara. Dico che il giudice dell'udienza preliminare si trova ad affrontare un caso di cui sa i dettagli quella mattina stessa. Era un caso singolo, il reato applicato quello di maltrattamenti in famiglia, un reato grave e una pena di 2 anni col patteggiamento è una pena alta. Il giudice deve giudicare su quel che si sa, su quel che è stato chiarito. Non è frate indovino, dice questo magistrato. Diciamo la verità, nemmeno ora si conosce con esattezza cosa è accaduto in quella casa. quella della tragedia. Beh, qui verrebbe da aggiungere, di certo si sa che ci sono due morti, ecco. Beh, pensa che la legge non tuteli abbastanza le vittime? In generale temo che contro la follia umana, risponde il giudice, anche la giustizia possa far poco. Ragionassi da sbirro, potrei dire lo arresto e lo metto dentro comunque. Ma poi? Per quanto? Per tutta la vita? E sulla base di quale legge? E poi siamo sicuri che un divieto di avvicinamento possa davvero asservire a qualcosa? Beh, ma senta, ma lei che rammarico ha? Beh, il rammarico è umano. Io sono un uomo di legge, però, e di giustizia, e queste sono le armi che ho e rispetto, anche se la giustizia mi ha maltrattato. E qui Marco Menduni dice: l'intervista prende un'altra piega, perché si racconta di come nel 2009 Filippo Maffeo, magistrato, allora allontanato d'ufficio dalla Toscana, dalla procura di, in Toscana, dalla procura di Imperia, ebbe una lunga perché fu trasferito? Perché ebbe una lunga querela con un'altra collega e sono usciti oggi gli SMS e l'accusa nei confronti del magistrato è, pensate un po', stalking. Cioè stalking, lo stesso reato ovviamente con conseguenze ben più gravi, per cui ha processato questo marocchino e l'ha lasciato libero dopo il patteggiamento e questo marocchino ha ucciso la moglie. Stalking perché mandò questi messaggi alla collega: sei una donna di intelligenza superiore, di cultura e di splendido intelletto, dimmi dove vai a correre oggi e ti raggiungo, se devi andare a Genova ti accompagno io, devo parlarti di una cosa importante, e ancora non mi merito il tuo silenzio, e ancora allora sparisco per sempre. Per questi messaggi, scrive il Secolo XIX, ha avuto un procedimento per stalking. Ma certo, parla invece e si difende Filippo Maffeo, intervistato dal Secolo XIX, per questa vicenda di stalking ben più grave, se volete, finita in una tragedia con l'uccisione e poi il seguente suicidio di questo cittadino che ha ucciso la moglie e due mesi prima era stato liberato. E questo sul Secolo XIX, guai anche giudiziari, lo sapete, per il governatore della Lombardia Roberto Maroni. Pressioni di Maroni per la collaboratrice. Questo è il titolo di pagina 22 del Corriere della Sera. Luigi Ferrarella racconta in questo articolo le accuse al governatore lombardo, e questo ha spinto su Expo SPA perché pagasse un viaggio a Tokyo a una collaboratrice, coi PM che dicono il motivo è che c'era una relazione affettiva tra Maroni e la stessa collaboratrice. E in effetti Luigi Ferrarella inizia l'articolo chiedendosi così: il privato è pubblico? Slogan del 68? No, nemesi del presidente della regione Lombardia, il quale, essendo per la procura di Milano legato da una relazione affettiva a una sua ex collaboratrice al Ministero dell'Interno, cioè Maria Grazia Paturzo, e valutando l'inopportunità di assumerla nel proprio staff, prima avrebbe concordato con l'amministratore Giuseppe Sala che Expo SPA conferisse a questa signora un incarico temporaneo di raccordo tra Expo e la Regione Lombardia, e poi a fine maggio 2014 avrebbe fatto pressioni affinché Expo SPA aggregasse la donna a una missione della regione in Giappone e se ne accollasse le spese di aereo in business class e di hotel di lusso per circa 6.000 euro. Per la verità, scrive il Corriere, quella trasferta poi non ci fu annullata all'ultimo momento da Maroni. I biglietti furono riutilizzati da un'altra delegazione regionale e dunque per le casse pubbliche il danno concreto fu di poche centinaia di euro, solamente la prima notte in hotel da pagare comunque. C'è anche una dichiarazione non pubblica di Maroni che però parla ai suoi più stretti amici: il messaggino che mi contestano è stato modificato. E l'ho saputo dalle agenzie di stampa, vi sembra possibile tutta questa vicenda? Come fa la procura a sostenere chi avrei avuto una relazione con Maria Grazia Paturzo? Insomma, un Maroni arrabbiato, ma che certamente rischia di passare dei guai giudiziari, come scrive il Corriere della Sera. Mentre salto dall'altra parte dell'Italia, a Ragusa, dove Emanuele Lauria su Repubblica racconta... Ieri c'era Ragusa, era Ragusa che ci sono un boom di case chiuse? Sì, era Ragusa, sì, che dicevo ragusani, spiriti bollenti. Vabbè, questa è un'altra vicenda, come racconta Emanuele Lauria su Repubblica, pagina 10. il sindaco del Movimento 5 Stelle si aumenta lo stipendio. Questo è il titolo di Repubblica. Il più moderato dei grillini alla fine scivola sull'aumento dell'indennità. Ed ecco che una bufera investe d'improvviso Ragusa, città simbolo per i 5 Stelle, la prima conquistata in Sicilia da un movimento che ora sogna di prendere possesso della regione. Il sindaco Federico Piccitto, insieme alla giunta, hanno deciso di farsi riconoscere dal mese di maggio un ritocco dello stipendio sotto forma di adeguamento Istat, un incremento a posteriori. Gli amministratori ragusani si sono garantiti tutti gli arretrati a partire dal 2013, ovvero da quando sono in carica. È una sorta di cadeau da 35.570,90 euro, non una cifra stratosferica. Quello che fa sobbalzare sulla sedia qualcuno è proprio il principio. Ma come un sindaco del Movimento 5 Stelle? Non è un aumento di stipendio, ma un adeguamento Istat retroattivo. Provvedimento che non poteva passare inosservato perché beneficia i rappresentanti di una forza politica che a tutti i livelli ha fatto della riduzione degli emolumenti un punto centrale della propria campagna. Ecco che un paio di consiglieri del PD di Ragusa hanno sollevato dubbi anche di legittimità sulla retroattività di questo atto. Ed eccolo qui la polemica servita e sfornata sui giornali. Ma a proposito di polemica, a proposito di rabbia, a proposito di mani sul volante, se siete alla guida, l'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata lo trovate a pagina 31 del Corriere della Sera, firma Gian Antonio Stella. È passato un anno dallo scandalo del MOSE, l'arresto dell'ex governatore del Veneto ed ex ministro Giancarlo Galan, il patteggiamento, gli arresti domiciliari. 3 anni di carcere patteggiati, confiscati 2,6 milioni di euro, ma rimane ben imbullonato come presidente della Commissione Cultura alla Camera. Non si può fare nulla, come dice la presidente della Camera Boldrini. La legge non consente che venga rimosso. E lui scrive, Stella, in attesa che arrivi il ricambio scontato con la scadenza di metà legislatura, resta lì, pertigna. Non può partecipare da un anno a una sola riunione della Commissione Cultura? Vabbè. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, la chitarra elettrica dell'informazione. Well, she's walking. There he is. Ma chi è sto spettacolare? Sto spettacolare ascoltatore. Cosa mandare tutta questa? Invece. No, vabbè. Salutiamo Jimi Hendrix, giusto? E andiamo avanti a leggere i giornali, capisco, scusate, ma preferivate Jimi Hendrix. Allora, dicevamo, il lavoro e l'Istat certifica con la disoccupazione che scende al 12,4% che ad aprile ci sono 150.000 nuovi posti di lavoro. Rossella Bocciarelli spiega tutti i dati a pagina 5 del Sole 24 Ore. Aprile è il più gentile dei mesi, non il più crudele, almeno per quel che riguarda il lavoro. I dati dell'Istat registrano un recupero mensile dopo il calo di febbraio e marzo pari a 159.000 occupati in più, è il più 0,7% rispetto ai mesi precedenti. Nel primo mese di operatività del Jobs Act, per effetto degli sgravi contributivi ma anche dei primi accenni di ripresa economica, si segna un incremento dello 0,4% anche nel tasso di occupazione, pari al 56,1%. Mentre su base annua l'aumento degli occupati dell'1,2% rispetto all'anno scorso, 261.000 in più. Ovviamente ci sono i dati, vengono commentati con soddisfazione. Filippo Taddei, che è il responsabile economico del Partito Democratico, viene intervistato da Roberto Mania a pagina 3 di Repubblica, dice: questa è una ripartenza con basi solide. Prima dei dati sull'occupazione erano arrivati quelli sul PIL e sul balzo degli investimenti, poi sulla crescente stabilizzazione dei contratti di lavoro, tutti dati nella stessa direzione. Già, chiede però Repubblica, però i contratti a termine crescono più del doppio di quelli a tempo indeterminato. Il Jobs Act non doveva invertire questa tendenza? Non è così, risponde Taddei. Il rapporto tra le due tipologie contrattuali è ora più favorevole ai contratti a tempo indeterminato. In proporzione i contratti di stabilizzazione sono di più di quelli a tempo determinato rispetto a ciò che accadeva in passato. E questo è il vero cambiamento. Così Filippo Taddei commenta entusiasta questi dati. Certo, il ministro Poletti ha rilanciato il tema della staffetta generazionale, lo racconta il Corriere della Sera, pagina 3, con Lorenzo Salvia, cioè la staffetta generazionale, vale a dire la possibilità di fare un'uscita anticipata di chi è vicino alla pensione per lasciare posto ai giovani di assumere. Ci aveva già provato il governo Monti con una piccola sperimentazione, anche quello Letta, rinunciando per i costi eccessivi, se ne riparlerà dopo l'estate con la legge di stabilità. Ma questo è uno dei punti su cui il ministro Poletti dice si può puntare a partire dall'autunno, con la solita graffiante ironia. Iena sulla stampa commenta a pagina 3, in un momento politico di un po' impasse per Matteo Renzi: meno male che l'Istat c'è. Pagina 3 della stampa. Allora, la sicurezza è uno dei temi su cui si è giocata molto della campagna elettorale, su cui si giocherà anche molto della prossima, come dire, stagione politica. Questo almeno a giudicare, beh, sapete, la questione dei campi rom è una questione che è stata anche esasperata dalla tragedia di Boccea. Ieri c'è stata una manifestazione con Casa Pound in piazza, stop ai campi rom, qualche contestazione perché era una manifestazione non autorizzata, tensione a Roma, corteo antirazzista e Casa Pound si fronteggiano. Gli attacchi sul web anche agli avvocati che difendono questi rom. Devi morire. Sulle pagine Facebook degli avvocati avremo uno degli avvocati, Antonio Gugliotta, che insieme alla figlia Carola Gugliotta difende questi quattro rom che sono accusati di omicidio della Filippina. Beh, la tensione è palpabile. Per il Messaggero, rom, basta mega campi. A Roma sale la tensione. Pagina 13, Cristiana Mangani racconta che il piano del governo è proprio quello di chiudere gli insediamenti rom. Istruzione, lavoro, salute, ma prima di tutto abitazione. Si può cominciare a parlare di vera integrazione per i rom solo se si cancella l'idea del ghetto. E allora ecco che gli obiettivi del governo sono la chiusura dei campi innanzitutto. Libero la mette in maniera un po' più populista, se volete. Renzi usa il modello marino più rom d'appartamento, e cioè Renzi vuole far chiudere sì i campi, ma sta pensando di sistemare i rom che non hanno un reddito per potersi comprare una casa in alloggi pubblici. Sono misure contenute nell'agenda europea, minimizzano dalla segreteria del PD. E Libero, ecco che titola in prima pagina su questo: Renzi vuole dare le case ai rom. Tra l'altro, a proposito dei rom, uno dei ragazzi fermati, quello che probabilmente era alla guida, cioè il 17enne, pare che abbia giustificato in maniera tra l'improbabile e anche un po' che fa arrabbiare la tragedia di Boccea, ed è questo: ma come mai sei fuggito? Ho visto la polizia e ho confuso il piede dell'acceleratore con il freno. Ecco, passiamo oltre, passiamo al caso De Luca. Tra l'altro vi annuncio che domani avremo ospite Vincenzo De Luca, alle 8:20 domani sarà nostro ospite il neogovernatore della Campania, perché c'è tutto il caso della Severino. Oggi l'intervista più interessante la fa il Corriere della Sera. Parla Filippo Patroni Griffi, magistrato che è stato ministro alla funzione pubblica nel governo Monti e anche sottosegretario con Letta. Parla lui perché lui, pochi lo sanno, è il coautore della legge Severino, per cui De Luca e altri, insomma, sono stati prima sospesi, poi reintegrati, e ora De Luca rischia ancora una nuova sospensione. Quando a suo tempo avete scritto i decreti, pensavate e immaginavate che la causa della sospensione precedesse l'elezione? Sinceramente era uno scenario difficilmente immaginabile, risponde Filippo Patroni Griffi. Il problema giuridico che ci troviamo di fronte, cui ci troviamo di fronte è il seguente. A prescindere dalla tempistica del decreto del Presidente del Consiglio, da quale data bisogna far decorrere la sospensione di De Luca? Ecco, questo è il punto. Appunto, risponda lei, Patroni Griffi, visto che avete scritto la legge. Ci sono tre ipotesi. A. La sospensione scatta a partire dalla proclamazione di De Luca. E su questa linea abbiamo il precedente del riguardante Michele Iorio in Molise. B. La sospensione scatta dalla convalida dell'eletto, cioè dalla prima seduta del Consiglio regionale. C. La sospensione scatta dal momento del suo insediamento davanti al Consiglio, ovvero dopo che ha assunto la carica nominando un vice cui affidare la giunta. E. Il precedente del Molise, chiede Dino Martirano del Corriere, ci dice che nel 2013 il governo di cui lei faceva parte optò per l'ipotesi A, cioè Iorio sospeso a decorrere dal giorno della proclamazione. Sì, ma c'è una differenza, risponde Patroni Griffi. Iorio aveva perso le elezioni, per cui la sua sospensione, coincidente con la sua proclamazione, non ha messo in crisi la funzionalità della regione. Con De Luca il discorso cambia, perché la sua eventuale sospensione a decorrere dalla proclamazione o dalla convalida determinerebbe la paralisi dell'organo. Insomma, tutta una lunga intervista e non si capisce da quando cavolo dovrebbe decadere o dovrebbe essere sospeso De Luca. È tutta una questione di interpretazioni giuridiche, ma finalmente ora Mauro Meazza ci dirà da quando decorre la legge Severino. Mauro, buongiorno. Buongiorno, guarda, io mi sto innervosendo. Una mezz'oretta per, già solo per capire i termini del problema. No, ti posso dire, io mi autosospendo per domani. Perché? Per domani non ci sentiamo, no? non è una battuta, purtroppo non posso. Quindi facciamo così: mi autosospendo io. Domani, no, Mauro Meazza sarà già in clima partita per la Champions League. Vabbè. Non diciamo nulla, no, che dopo ci accusano di gufare, caro Alessandro, però ti voglio dire, visto che hai nominato la partita tra Juventus e Barcellona, oggi sai che con il Sole 24 Ore c'è la guida di Barcellona. Oh, esatto. Non so se è una guida anche al Barcellona, però noi la proponiamo e poi vediamo, insomma, se qualche anche tifoso o non tifoso è interessato. Ti voglio segnalare che da oggi puoi mandare le domande su IMU e TASI, ricordi che c'è l'IMU e TASI che ti aspettano il 16 giugno, ci aspettano tutti. Aspetta. C'è l'acconto IMU e TASI, noi ne parliamo naturalmente anche oggi sul Sole 24 Ore, ma poi ne parliamo anche sul sito e c'è questa casella di posta elettronica dove mandare i quesiti per coloro che non fossero ancora sicuri di alcune questioni relative alle due imposte. Sei finito nella classifica dei più ricchi d'Italia, del mondo. Appunto, mi sembrava che volesse offendermi. Ero un po' dubbioso, poi ti sei corretto. Del riferiamo, mondo, sì. Riferiamo in finanza, tra molte altre cose, anche che c'è questa particolare classifica. Chi è che vince? Uno spagnolo, ma vince sempre lui alla fine, Gates. Però c'è uno spagnolo che è arrivato secondo. E chi è? Si chiama Amancio Ortega, è il magnate del gruppo Inditex. Leggo dall'articolo di Monica Andascenzo, proprio in diretta, sulle pagine di finanza. Sono belle queste classifiche per aumentare un po' di. Spargere un po' di odio sociale. Alla fine, guarda che l'invidia comunque è un peccato, sì, non è una cosa bella, però non ti trovo però nella citazione dell'articolo della collega D'Ascenzo, non capisco come mai. Vabbè, invece volevo parlarti dell'ACE, ma in realtà non lo voglio dire a te, lo voglio dire agli amici di Radio Fisco. Mm-hmm. Guardate che c'è una circolare sull'ACE che non è una sigla del succo di frutta, ma è l'aiuto alla crescita economica. Ieri le entrate hanno diffuso appunto delle istruzioni che spiegano come utilizzare o come non si può utilizzare le eccedenze per quanto riguarda l'aiuto alla crescita economica. Alessandro, non è importante che tu capisca. Ma l'importante è che qualcuno abbia capito. Esattamente. E poi ti segnalo la class action. Sì. Ah, c'è stato il primo voto alla Camera, spiega bene. Vabbè, ma class action, però adesso non so, azione di classe. Vabbè, non lo so. Vabbè, azione non collettiva, non lo so. Adesso diventare il mio incubo. Vabbè, l'azione collettiva, va bene. Compro azione collettiva, compro una vocale e finisco di segnalare. Giovanni Negri ti spiega cosa c'è in questo disegno di legge che ha avuto il primo sì, adesso serve un secondo. In realtà è un approccio, diciamo così, un pochino aggressivo, ma avremo modo di parlarne nelle prossime settimane. Per il momento devo dire, no, non dico niente per la partita di sabato, se no dopo mi dicono che è gufo. Però buon weekend a questo punto. Buon weekend lungo per chi può, per chi non può, debosciato, sta a lavorare, il weekend comincerà più avanti. E soprattutto, caro Alessandro, profitto! Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, l'uomo con la pistola chiama Alessandro Milan, il buono, il brutto e il cattivo dell'informazione. Addirittura. Allora, tra l'altro mi scrivono da che film è tratto il brano. Sono cose che capitano, chi commenta spesso. E allora io rilancio a voi. Alcuni che mi hanno scritto privatamente, ad alcuni ho risposto. Rilancio a voi questo quiz. Secondo voi da che film è tratto? Dai. Scriveteci al 349-238-6666. Chi indovina vince il Barcellona. No, nel senso, chi indovina vince nulla. Però vince il nostro affetto. 349-238-6666. Da che film è tratto? Me lo dovete dire voi. Lancio questo quiz. Parliamo della maggioranza di governo che ha perso in Parlamento 3 senatori. Questo almeno è quello che raccontano i giornali, perché i Popolari per l'Italia, che sono guidati dall'ex ministro Mario Mauro, hanno annunciato di passare dalla maggioranza all'opposizione in Parlamento. Dopo il voto si riapre il fronte al Senato, scrive il Corriere della Sera, con la perdita di 3 senatori che, per la verità, scrive il Corriere, già da tempo votavano in dissenso dalla maggioranza. E poi in realtà invece che 3 dovrebbero essere 2, perché uno dei 3 è Angela Donghia, sottosegretaria all'istruzione, che però ha annunciato di non condividere la scelta di Mario Mauro, e quindi se ne sono andati in 3, ma si ritrovano già in 2 molto probabilmente. Comunque il dato di fatto è che si restringe la maggioranza di voti su cui può puntare e contare il governo Renzi in questo momento, ha una maggioranza di 9 voti in Senato, e sapete che lì arrivano la questione della scuola, eccetera, insomma provvedimenti importanti, e quindi c'è il rischio di andare sotto. A proposito di questo, tutti guardano a lunedì la direzione del PD. La mossa di Renzi sembra questa: puntare a sancire l'incandidabilità, o meglio la non ricandidabilità, per i dissidenti. Così Monica Guerzoni a pagina 10. Questa potrebbe essere la mossa di Renzi. Per carità, nessuna espulsione. Il presidente del partito Orfini assicura che eventuali espulsioni sono assolutamente fuori discussione. Semmai c'è il tema della non ricandidabilità, cioè non siete fedeli in Parlamento, non votate i provvedimenti, al prossimo giro il partito non vi ricandiderà. Questo è quello che si profila, staremo a vedere. Fa l'ennesima intervista invece Matteo Salvini, viene intervistato da Repubblica, racconta di come voglia essere considerato in questo momento il leader del centrodestra, altro che Silvio Berlusconi. L'intervista è di Piero Colaprico. Pronto per Palazzo Chigi e per sfidare Berlusconi, ci sarà un nuovo centrodestra, conquisteremo anche il sud. Insomma, se me lo chiedono i cittadini, dice Salvini a Repubblica, a Palazzo Chigi ci vado, certo, anche perché a differenza di Renzi non sarei mai un uomo solo al comando. Nella mia testa ho già tante persone per l'economia, l'industria, l'agricoltura, la squadra, insomma c'è, non andrei al buio, per questo non mi tremano le vene dei polsi, ipotizzando di essere il futuro presidente del Consiglio. Così Matteo Salvini. Gli si chiede: prima vorrà fare come tappa il sindaco di Milano? Risponde il leader della Lega: tappa il sindaco della città più bella del mondo? Tappa, lei dice, è un sogno, è un punto di arrivo di una vita. Il sindaco è il mestiere più bello del mondo per un politico, ma non so se si vota alle politiche nazionali l'anno prossimo o quando i giochi sono aperti. In realtà Un altro leghista intervistato dal Messaggero, Umberto Bossi, ex leader della Lega, dice: secondo me invece si vota proprio l'anno prossimo, nel 2018 non si arriva, qui tra poco frana tutto. Così Umberto Bossi, Dixit. Vi segnalo per la cronaca alcune storie. La prima è questa. La Stampa, Gaetano Mazzucca, pagina 16. Mandati a zappare la terra invece di andare a scuola. Succede a Petilia Policastro, Crotone, Italia. La lotta alla criminalità in Calabria si fa anche spulciando tra i registri di classe. Fermare l'emorragia della dispersione scolastica vuol dire non solo garantire il diritto all'istruzione, ma bloccare il reclutamento di nuove leve da parte di clan locali. Così anche quest'anno, a fare gli scrutini negli istituti di Petilia Policastro, il paese di Lea Garofalo, la testimone di giustizia trucidata dagli uomini dell''Ndrangheta, non c'erano solo i professori ma anche i carabinieri e 20 genitori responsabili della mancata frequentazione delle scuole dell'obbligo da parte dei loro figli sono stati denunciati perché i minori venivano spediti nelle terre, nei campi a zappare. Ripeto, Petilia Policastro, Crotone, Italia, succede, lo racconta la Stampa, lo faccio vedere anche in diretta per gli amici di Periscope che sono collegati da questo momento. Vi segnalo un articolo su Repubblica, invece una storia, siamo stati in provincia di Brescia, lo fa Matteo Pucciarelli che si finge un'altra persona e ha frequentato per 3 giorni il corso tenuto da Luca Di Tolve, quello che fu reso famoso dalla canzone di Povia, Luca era gay e adesso sposa lei, faceva più o meno così quella canzonaccia. E cosa fa Luca Di Tolve? Ora tiene seminari per redimere gli omosessuali, guarire gli omosessuali, al corso che vuole guarire i gay. Prega con noi e tornerai etero. Questo è incredibile, io l'ho letto, è un reportage incredibile, davvero, dove ci sono delle cose che sembrano tirate fuori dal 1320 e invece siamo nel 2015. Vabbè, ma siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, no! L'intervista al rapper Moreno, che ha fatto il tunnel a Pavel Nedved e si è preso una legnata sul ginocchio alla prima occasione utile che Pavel Nedved da rancoroso gli ha tirato dietro. Pavel Nedved, la furia cieca, no, sul Fatto Quotidiano, l'intervista a Moreno che dice: certo, lo rifarei e come il tunnel a Nedved, è stata una soddisfazione pazzesca. Moreno, ma chi se ne frega!